con Emiliano Viccaro delle Camere del Lavoro Autonomo e Precario per presentare la seconda edizione di Clap and Go, Festival del Lavoro Vivo alla rincorsa di diritti e reddito a Roma, Casale Garibaldi, dal 31 maggio al 2 giugno 2019. Emiliano, ben trovato. Ben trovati a voi. Partiamo dalle Camere del Lavoro Autonomo e Precario, spieghiamo un po' cosa sono. È un'esperienza nata alla fine del 2013 ed è il tentativo di costruire uno strumento di tutela, di mutualismo per i precari fatto da precari. Quindi c'è una lunga storia di tentativi organizzativi, insomma, o di campagne relative alla nuova composizione del lavoro vivo. È la storia che negli ultimi 20-30 anni ha costellato questo paese con tentativi dei nuovi soggetti sociali di costruire forme organizzative nuove, innovative, comunque che aderissero alle questioni della forza lavoro contemporanea. Ovviamente è una sperimentazione che vive in alcuni spazi sociali, perché insomma, i centri sociali sono state anche questo, sono state il tentativo di costruire strumenti di difesa nuova del lavoro precario. E quindi dopo 5 anni ci ritroviamo insomma con un intervento sperimentale ma radicato dentro alcune vertenze lavorative molto importanti. Parliamo della sanità convenzionata, parliamo del lavoro quello autonomo più povero, parliamo dei tanti lavoretti che si fanno, che costruiscono il DNA di questa generazione, di queste nuove generazioni, a cui spesso non corrisponde strumenti adeguati per la tutela del salario, del reddito e dei diritti. Quindi, con tutte le difficoltà e le complicanze di una sfida del genere, che è una sfida gigantesca, insomma, epocale, dobbiamo dare un contributo dal punto di vista del lavoro auto-organizzato e precario. Il festival? Festival è il secondo anno che facciamo questo festival ed è il tentativo, ovviamente, innanzitutto di autofinanziamento di una esperienza che come si capisce bene, non ha nessun tipo di finanziamento se non quello dei militanti e degli iscritti all'associazione. Ma è anche vuole essere l'occasione per stare un po' insieme, sperando che arrivi questa estate che attendiamo da tanto tempo, e utilizzare alcuni format di produzione culturali che ci possono aiutare a ragionare su un lavoro vivo contemporaneo, insomma, quindi è un'occasione di socialità, di feste, di autofinanziamento, anche di discussione, di incontri pubblici attorno a questi temi. Abbiamo pensato per questa edizione di lavorare appunto su un format che partesse dalla produzione culturale e quindi il venerdì 31 inizieremo con una presentazione di un progetto molto bello fatto da un collettivo messicano, La Pistola si chiama, insieme a delle scuole del municipio Quinto, che si è concretizzato nei giorni scorsi con un murales proprio fatto da questo collettivo messicano, di cui fanno parte anche diversi insegnanti che presero parte alle rivolte di Oaxaca degli insegnanti quando furono attaccati i diritti dei lavoratori in quella città. E poi proseguiremo con alcune incursioni teatrali, con un reading e poi proietteremo, faremo un incontro con e la proiezione del film Cuore solo amore di Vicari, che è un film che in qualche modo in maniera molto pop, insomma divulgativa, ha raccontato un pezzo di precarietà del lavoro contemporaneo, un pezzo anche di sfruttamento del lavoro contemporaneo. Lo facciamo con Mauro Palma che ci aiuterà a fare due chiacchiere con il regista Daniele Vicari e faremo una chiacchiera aperta appunto sui temi della precarietà e del lavoro. Il sabato sarà, diciamo, più una giornata attorno alla convivialità e ad alcuni laboratori e momenti artistici più per i bambini, perché ospitiamo un appuntamento speciale su Terra Terra dalla mattina fino al tramonto e avremo diverse incursioni musicali o artistiche. Alle 5 ci sarà Capitan Calamaio, che è un piccolo grande eroe dei bambini di questa città, e poi faremo alcune live folk, rock, insomma, ci sarà una giornata piena di eventi artistici e di incontro. Mentre la domenica chiuderemo presentando prima una ricerca sulla questione del reddito minimo fatta dal Basic Income Italia. Poi ci sarà un'altra incursione teatrale, un monologo molto interessante che si intitola Prima che il gallo canti, di Ivo Catani, e poi alle 19:30 chiuderemo con un talk pubblico dal titolo Nuove schiavitù e libertà di movimento, migrazioni, lavoro e lotte sindacali. Temi ovviamente d'attualità, visto l'incrocio tra l'attacco al diritto di movimento dei migranti, ma anche poi l'attacco ai diritti dei lavoratori in senso lato. Lo faremo insieme all'avvocato Brunetti, a Sandro Mezzadre e a Maurizio Russo Spena. E ovviamente il programma completo lo trovate insomma sulla pagina Facebook e sul sito di CLAP, Camere del Lavoro Autonomo Precario, e anche sui profili social di Casale Garibaldi Common at Work. Benissimo, ricordiamo la seconda edizione di CLAP and Go, Festival del Lavoro Vivo alla rincorsa di diritti e reddito a Roma, Casale Garibaldi, dal 31 maggio al 2 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Emiliano Viccaro, un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi. Ciao.